Buonasera a tutti, siamo qui nel tugurio, al freddo, al gelo, pronti per il terzo episodio, il terzo capitolo della revancia, dopo mille peripezie, problemi, eccetera, eccetera. Forse siamo riusciti a trovare un modo per trasmettere. Registriamo da una parte e ritrasmetteremo non in diretta, purtroppo, potreste sentire solamente tramite podcast, molto probabilmente, o verrà trasmessa in diretta nei giorni seguenti, non si sa, molto probabilmente sì. Siamo qui stasera con un caro amico della scena, tra virgolette, possiamo usare la parola Sì, scena, sì. che ci ha portato a fare sentire a noi tutti le uscite della sua etichetta. Parlaci un po' della tua etichetta, Puccio, dai. Ciao a tutti, io sono Pulcio di Puntiscena Records. Puntiscena Records è nata nel 2013 a Prato. Praticamente eravamo in due a vivere nella stessa casa con due etichette differenti. E un giorno ci siamo resi conto che era una cosa idiota andare agli stessi concerti e portare a giro più o meno gli stessi dischi. Allora abbiamo deciso di unire forze, soprattutto debiti, Sì, tanti debiti, anch'io ho avuto un'etichetta e era principalmente passione e debiti, si può dire, no? Sì, passione, soprattutto debiti, che però lo facciamo volentieri per aiutare i gruppi che secondo noi hanno qualcosa da dire e vale la pena appunto farli uscire. Giustissimo. Tra l'altro hanno preso questi bravi ragazzi, si sono presi in blocco anche la mia vecchia distro con alcune perle ed altre cagate. Sì, alcune cose erano belle, me ne sono tenute per me. Quelle altre le ho messe nel listone di tutta la roba che vendiamo. Un vecchio invendibile a 1 euro e Esatto. tutte Una cose. grande scatolona di offerte. L'offerta simbolica non per i gruppi, ma per chi produce i gruppi. Esatto. Attenzione. Ok, adesso quindi iniziamo con la musica, no? Sì, cominciamo. Allora, la nostra prima uscita è stato lo split tra Cripple Fox e Shining. E adesso sentiremo una canzone di Cripple Fox, che sono questo gruppo ungherese, no, trashcore, fastcore. Tra l'altro hanno annunciato un imminente ritorno l'anno prossimo, il tour in Europa. Esatto, dovrebbero ritornare a primavera o estate, credo. E Sì, dovrebbero fare anche un disco nuovo addirittura. ho parlato con Attila, il cantante ha detto che questa è l'estate prossima, a primavera in tutta Europa, in Italia faranno un tour a parte, Sì, tipo d'agosto, giugno, sì, luglio. in estate Sì, in comunque, sì. estate, molto probabilmente a Firenze suoneranno. Fonti attendibili dicono che a Che a Firenze Firenze suonerà. suoneranno, sì. Vai, Society Slide e Cripple Fox. Sono Sono finiti? Ok. finiti. Sì. Il bello di questa puntata sarà la poca durata delle canzoni. Esatto, sì, sono canzoni, boh, al massimo dureranno 2 minuti quelle che durano tanto. E niente, A sì. esagerare 2 minuti. Ci Vabbè, piacciono le cose sì. veloci, ci Short, fast piacciono. and loud. Bene, adesso andiamo avanti. Quindi Cripple Fox sono stati la prima uscita della Puntiscena Records. Esatto, poi la seconda uscita è stato uno split tra un gruppo americano che si chiamano Common Enemy, che probabilmente conoscete già, e un gruppo di un nostro caro amico di Padova, si chiamano Eat You Alive, Salutiamo tanto, tra e lo l'altro. salutiamo tantissimo, il buon Mirchetto. Sì. E bene, anche se gli Eat You Alive non esistono più, Esatto, Ora non esistono più perché appunto ora ha un altro gruppo che si chiamano Double Me, Double che appunto auguriamo, gli auguriamo un buon tour in America. Anche Me. loro Esatto. andranno a girarsi la West Coast, portare il loro Power Violence. Bene, adesso Eat You Alive da Padova. Abbiamo fatto la trashata, abbiamo messo i due pezzi tratti dallo stesso disco, quindi da uno split, attaccati senza dirvi che questi ultimi erano i Common Enemy e quelli di prima invece erano Litio Alive. E beh, andiamo avanti, passiamo alla terza uscita Alla della terza uscita. punkiscena. Allora, in realtà il pezzo che andremo a mettere non è tratto dalla terza uscita, ma è lo stesso gruppo, che è un gruppo power violence belga che si chiamano Prisoner 69. Belga inglesi, no? Se non mi Sì, uno sbaglio. è inglese, sono in due. Uno è belga, uno è inglese, però di base stanno in. Cioè, è un gruppo belga, Di base dicono di essere belgi. Sì, belgi. Grandi. Grande Harry. Va bene, adesso sentiamo i Prisoner 639. Fine. È il bello del punk, è anche questo. Prendere un disco, metterlo e poi dopo vi tocca sentirvelo tutto. Eh sì, vi toccherà proprio. Bene, andiamo avanti. Allora, la prossima è il disco di Carlos Dunga. Abbiamo fatto uscire il disco di Carlos Dunga, ma è quarta uscita, che penso li conoscete già, sono un gruppo di Se Firenze. non li conoscete, fate bene perché fanno schifo. Piccola rettifica della puntata zero, ci siamo dimenticati di mettere Carlos Dunga. Vabbè, li metteremo, tanto era palese che prima o poi sarebbero tornati in qualche maniera alle vostre orecchie. Che canzone mettiamo? La title Sì, track? dai, mettiamo Sabato Nero. Vai, Sabato Nero, Carlos Dunga. Scusate, bene, questi erano i Carlos Dunga. Questo disco è uscito un annetto fa. Sì, Quando uscì? Un anno fa? sì, cioè ci Cioè, so. 2 anni È fa. il tuo gruppo, tanto dovresti sapere meglio di me. 2 anni fa, 2017, 2016, no, 2000, l'anno scorso, sì. Boh, non me lo 2015, ricordo quando. 2015, 2015, sì, 2015, 2000, maggio maggio 2015. 2015. Sì, uscito dopo un anno dopo averlo registrato. Vabbè, soliti nulla facenti che non fanno un cazzo e ci mettono 1000 anni a fare le cose. Bene, andiamo avanti e continuiamo a parlare delle uscite dei punti Ok. scena. Un altro gruppo che abbiamo fatto uscire si chiamano Anno Senza Estate, è un gruppo di Alessandria, fanno garage, punk, rock, insomma è un bel miscuglio di roba. E abbiamo fatto uscire di loro il loro EP che si chiama 2016 e poi abbiamo fatto uscire anche uno split, che hanno fatto uno split con gli Alphatech, abbiamo fatto uscire pure quello. E adesso se volete ci andiamo ad ascoltare Catene, che è tratta dall'EP 2016. Avete già sentito gli Anno Senza Estate in questa trasmissione, li citavo come una delle migliori uscite del 2016, ce li ascoltiamo. Un altro pezzo tratto dallo stesso disco, insomma, che è uscito su Punti Scena Record. Catene. Lasciare tutto e lasciare niente, alzare le catene della mente. Lasciare tutto e lasciare niente, alzare le catene della mente. Provare la sofferenza e poi riconoscerla. Trovare la medicina e attuare poi la cura. Bene, bene, torniamo con Paul Snack che ci dice di spezzare le catene nella mente, essendo lui un acculturato, ha citato un famoso poeta inglese di 800, Blake, che diceva appunto spezzate le catene nella vostra mente. Ma noi andiamo avanti, non spezziamo le catene, anzi spezziamo le catene, anzi, sì. Parliamo del prossimo gruppo, si chiamano My Own Voice, è un gruppo di Milano attivo da diversi anni, ora di preciso non lo so, ma quasi 10 credo. Sì, ha voglia, probabilissimo. Che li avevo già fatto uscire i loro precedenti album quando ancora avevo la vecchia etichetta che si chiamava Beggar God Records, e ora li abbiamo fatto uscire anche il disco nuovo, hanno fatto sia LP che CD. Il disco si chiama Sailing On e la canzone, adesso andiamo ad ascoltare una canzone tratta da questo album. I nostri mezzi potenti scenici per ora non fanno, ma noi continuiamo a parlare di My Own Voice, così oggi ci faremo una cultura su My Own Voice. I quali si sono trasferiti a Torino, perché il cantante si è trasferito a Torino, e hanno cambiato formazione più e più volte, ma sono ancora sulla strada. A proposito, dovrebbero andare in tour in questi giorni. Sì, ho visto. Se non mi sbaglio, mentre i nostri potenti mezzi tecnici riescono a caricare, forse riusciamo a caricare la canzone e farvela ascoltare. Invece no. Altrimenti ve la potete andare a cercare su YouTube. O se no proviamo con un altro programma ancora, perché non si sa mai, meglio averne che non averne. Le nostre risorse sono infinite a quanto pare. Sono infinite? Teoricamente sì. Teoricamente sì, ma in realtà non lo sono. Bene, My Own Voice, mi dispiace per Marchidda, ma non potranno essere ascoltati. E andiamo avanti. Più problemi quest'oggi. Ma noi ci piacciono le cose difficili. Sì. Poi i problemi nascono per essere risolti. Quindi esatto. più ne abbiamo ora, meno ne avremo in futuro. Allora, il prossimo gruppo è un gruppo quasi locals, nel senso è un gruppo di Pisa, si chiamano Butters. Hanno suonato tra l'altro anche al compleanno dell'Emerson qui a Firenze due mesi fa. E niente, ora ci andremo ad ascoltare. Hanno fatto uscire appunto questo EP e ora ci andremo ad ascoltare una traccia tratta da questo disco. Bene, la cerchiamo tutti insieme. La dobbiamo cercare, ma ce l'abbiamo. Questa è la tua chiavetta. Vabbè, chiamate Santo Cori, okay. Vi diamo il numero di Santo Cori e lo chiamate. Esatto, o altrimenti se volete il disco mi scrivete su Facebook o una mail e ve lo mando a casa. Anche loro, visto che non mettiamo il disco ma parliamo anche di loro, diciamo che hanno appena suonato 2 giorni fa a Milano. Per il Capodanno. Se eravate a Milano a sentirvi Butters, siete dei fighi. Se volete ascoltarvi Butters, andate al loro concerto, ma ancora meglio... Comprate il disco. O da loro, o da noi, insomma. Andiamo avanti. Secondo problema, ma risolveremo al terzo, saremo sicuramente perfetti. Sì. Ora andiamo a parlare un po' delle prossime uscite, perché le uscite, più o meno, cioè quelle già fisicamente uscite, sono finite. Però ne abbiamo altre in cantiere... Il prossimo gruppo che andremo ad ascoltare sono i Belzebit. È un gruppo a primo impatto strano, cioè se te li descrivo come genere, fanno grindabilly, uno potrebbe dire, oh, che roba è questa? Sono dei matti Tira shorty. che mischiano il rockabilly con il grind. Invece hanno fatto delle grandi cose, hanno fatto. Il disco ancora non è uscito, dovrebbe uscire tra un paio di mesi, al massimo tre. Mi hanno passato tra l'altro oggi in anteprima due tracce che appunto saranno sul disco, e ora ce ne andiamo ad ascoltare una. Appena sentiti Belzebit, uno dei gruppi più originali degli ultimi anni in Italia, perché un sound del genere, mischiare grind, rockabilly e tutte queste cose qui mixate insieme, sono molto belli anche da vedere live, tra Esatto, insomma l'altro. sì. Quindi se avete la possibilità, se suonano nelle vostre zone, andatevele a vedere perché merita sicuramente. Da noi hanno già suonato e ci sta che risuoneranno, Sì. non si sa mai. E Ok, e ora ci ora ci spostiamo. ricorda, torniamo in Toscana, a Lucca, e ascolteremo in anteprima un pezzo dei Nido di Vespe, che è dell'album che uscirà tra, mi hanno detto, massimo 3 mesi Sì, uscirà. aspetta. E mi hanno anche detto di precisare che questo che ascolterete è un premix, quindi non è la versione definitiva del brano, però intanto vi ascoltate questo, che si chiama Il Il vento vento d'inverno, d'inverno, grandi titoli di Apo, e che salutiamo. salutiamo i nidi che sono tornati da poco da un mini tour, poco, 4-5 giorni, da un mini tour al sud insieme a Carlos Dunga e DeLorean. Ci ascoltiamo un pezzo nuovo, Il vento d'inverno. Thank you. Vespe. E avete sentito appunto un premix dei pezzi nuovi. E adesso ci muoviamo al nord. Esatto, adesso andiamo a Trento per ascoltare gli ultimi due gruppi. Che il primo di questi ultimi due si chiamano Gufo Nero, è un gruppo sludge, sono un duo, basso e batteria, che anche loro hanno già suonato, se siete qui di zona di Firenze forse ve li siete già visti dal vivo all'Emerson. E tra l'altro anche loro sono stati già passati da Revancia nella puntata delle migliori uscite del 2016. Questo invece è un pezzo nuovo? No, in realtà no, ancora. Okay, è sempre un pezzo dell'EP che era già uscito, probabilmente sì, è dello stesso EP da cui avevate ascoltato la canzone nella precedente puntata della Revancia. E niente, anche loro se capitano nelle vostre zone andateveli a sentire perché meritano. Ne vale la pena. Via col Gufo Nero. Erano i Gufo Nero. Adesso rimaniamo sempre a Trento per parlare dell'ultimo gruppo, che si chiamano The Loyal Wonkers e fanno garage. Anche di loro sarà questo pezzo qua che andate ad ascoltare, è un pezzo già uscito su un EP. E niente, c'è da dire, loro non li ho mai visti dal vivo. Quindi, sulla fiducia. Però sulla fiducia, conoscendo uno dei membri. Che è lo stesso, tra l'altro, c'è cioè il bassista dei The Loyal Wonkers e il batterista di Cupo Nero. Esatto, quindi sulla fiducia, quando mi ha proposto appunto di fare questa coproduzione, ho detto sì, ci sto. Così, però poi me li sono ascoltati, sono molto validi, sono. Bene, bene, adesso ci sentiamo l'ultimo pezzo per oggi, The Loyal Wonkers, Jail, go! Trasmissione, abbiamo sentito l'ultimo pezzo e vi lasciamo con la sigla ricordandovi di seguire Radio Wombat in tutte le trasmissioni di Radio Wombat, non solo questa perché sono tutte molto fighe, molto belle. Si va dalla musica classica alla musica africana, passando per una trasmissione simile alla nostra, una trasmissione di linguisti all'Accademia della Brusca, trasmissione di sport la domenica. Di tutto e di più su Radio Wombat. La Revancia vi saluta. Ciao a tutti, Vi salutano anche Punti Scena. se volete ci trovate anche ci trovate su Facebook, poi abbiamo anche un sito addirittura La tecnologia. che è su WordPress, scrivete Punti Scena WordPress, lo trovate facilmente. Dove ci saranno elencate tutte le uscite che avete Esatto, tutte le sentito. uscite, poi tutta la roba che abbiamo comunque in catalogo, oppure venite all'Emerson, quando ci sono i concerti, che probabilmente mi troverete lì dietro al banchetto. Oppure se andate, perché ancora non, cioè non l'ho detto, il mio socio di distro, lui ora sta a Padova, quindi se siete anche in zona di Padova, andate a Padova e lo troverete ai concerti a Padova. Salutiamo il buon Ciao Giorgio, Giorgio. sempre presente nei nostri cuori e nelle nostre bevute, Gotto d'Oro Style. Arrivederci, alla prossima. Ciao. Questa puntata è girata quanto un live di gruppo, quindi fateci un applauso. Ovviamente di un gruppo punk.